America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. There is more and more fire and smoke enveloping the very top of the building. And oh my God! Oh my God! That just exploded. We just saw another plane coming in from the side. You can see the plane come in just from the right hand side of the screen. Avete sentito questo annuncio? Forse qualcuno di voi lo ricorderà. È l'annuncio dell'attacco all'America, dell'impatto del secondo aereo contro la Torre Sud. È stato uno dei giorni più tragici non solo per gli Stati Uniti ma per il mondo intero. Domenica 11 settembre saranno passati 15 anni da quel tragico attacco che ha cambiato il mondo. Our war on terror begins with Al-Qaeda, but it does not end there. It will not end until every terrorist group has been found, stopped and defeated. George Bush che annuncia la guerra al terrorismo. Questa è la reazione quasi immediata del presidente americano da allora che imposta delle campagne militari. Tonight I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda. Barack Obama che annuncia la morte di Osama Bin Laden. Ecco, molti pensavano che con questo annuncio potesse esserci un giro di boa. Questo giro di boa non c'è stato. C'è ancora un grande pericolo di attacchi terroristici ormai un po' dappertutto. Le organizzazioni terroristiche si sono moltiplicate. Avremo una serie di eventi celebrativi domenica. Intanto ci sarà una sospensione della campagna elettorale. Pensate, sia Hillary Clinton che Donald Trump non si faranno la guerra. Ci sarà il fascio di luce che parte da New York, dove c'erano le due torri. Ci saranno varie celebrazioni anche nei luoghi, per esempio al Pentagono, dove l'attacco poi proseguì. Ecco, è un momento triste naturalmente, ma a 15 anni dobbiamo riflettere sulle conseguenze di quell'evento. Io con me ai microfoni di America 24, Stefan De Mistura. Più volte ho parlato di multilateralismo, di crisi di multilateralismo, ma dalla necessità di tenere il multilateralismo vivo proprio in questo contesto di grande caos internazionale. Buongiorno ambasciatore De Mistura. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Allora, intanto vorrei fare una premessa. Stefan De Mistura, molti degli ascoltatori ovviamente lo conoscono perché ha lavorato per molti anni alle Nazioni Unite, ma soprattutto ha lavorato anche alla Farnesina, è stato inviato speciale delle Nazioni Unite, in questo momento è la persona chiave delle Nazioni Unite in Siria, ma non solo, è stato anche persona chiave, inviato sempre al segretario generale dell'ONU in Iraq e in Afghanistan. Non credo ci sia stata un'altra persona nel contesto internazionale che abbia seguito le tre ramificazioni, quelle che secondo me sono le tre ramificazioni dell'attacco dell'11 settembre. Ecco, è d'accordo sul fatto che dopo l'11 settembre ancora stiamo soffrendo di quell'attacco o le crisi che si sono sviluppate successivamente hanno un loro, come dire, andamento autonomo? No, stiamo seguendo ed subendo le conseguenze di quell'attacco. Il mondo quel giorno è cambiato. Io ero a Beirut quel giorno, ma fu chiaro a noi tutti che questo era un segnale di un cambiamento radicale. Quello che invece non sapevamo è che in effetti la risposta a questa doveva e poteva essere differente. In che modo, per esempio? Vede, sia in Afghanistan che in Iraq e altrove anche, si è pensato che eliminando le autorità locali avremmo in qualche maniera risolto il problema. La realtà è che la risposta deve essere molto più articolata. Le do un esempio. Lo squalo nuota nell'acqua. L'elemento dell'acqua in questo caso è la insoddisfazione di una comunità, nel caso specifico per esempio in Siria quella sunnita, e quindi facilitano la possibilità a personaggi come Al-Qaeda di dire: guardate, ci occupiamo noi della vostra insoddisfazione, basta che ci coprite. Quindi bisognava anche togliere l'acqua allo squalo e poi occuparsi della loro marginalizzazione. Bisogna assolutamente evitare che la popolazione di una certa etnia, gruppo, senta o pensi che con Al-Qaeda o con i terroristi si trovano ad essere protetti o sostenuti nelle loro aspirazioni. In poche parole, se noi avessimo avuto, abbiamo in Iraq i sunniti più coinvolti nel governo, non avremmo avuto la seconda ondata di Al-Qaeda, quella che voi sapete bene o male ISIL. Qualcuno attacca però le istituzioni multilaterali, o forse le grandi potenze, perché si dice invece di lavorare insieme, cercano ciascuna di preservare il proprio interesse. Siamo in una crisi del sistema multilaterale, lo vediamo anche nelle elezioni, il populismo che attacca l'Unione Europea, Brexit. Ecco, quanto di questo, responsabilità grandi potenze e debolezza delle istituzioni multilaterali, è responsabile di questa situazione? Tutte le istituzioni internazionali sono il prodotto della volontà delle varie nazioni. In poche parole, quando le nazioni cercano di farsi concorrenza, anche le istituzioni diventano più fragili. L'altro punto, sarà anche vero che le istituzioni e la comunità internazionale e la multilateralità è debole e ha difficoltà, ma non c'è alternativa. Nessuna nazione, nessuna superpotenza, lo ha dimostrato gli Stati Uniti, può da solo affrontare un problema come quello del terrorismo. Ecco, non abbiamo parlato di Siria, lei in questo momento è coinvolto in negoziati delicatissimi, quindi non le chiediamo anticipazioni, ma abbiamo visto che Putin e Obama hanno rotto durante il G20. Adesso il negoziato riparte. Insomma, riusciremo, secondo lei, a uscire da questa situazione di impasse? Tutto non hanno rotto, è una negoziazione difficile, dura, sono passati 5 anni e c'è, come ha detto il Presidente Obama, molto chiaramente c'è una mancanza del fattore T, trust, fiducia, mutua, vicendevole fiducia, ma quello che c'è, e io credo che noi come istituzione internazionale la sosteniamo questo, c'è una comune volontà e c'è un comune interesse comunque a trovare una soluzione alla lotta contro il terrorismo. Ma la lotta contro il terrorismo, per esempio in Siria, si può combattere, ma non si può vincere se non si includono chi si sente escluso, in particolare in un governo di unità che sia di transizione, che sia in qualche maniera una risposta a chi si è rivoltato anche. Ecco, qual è questo trust, questa fiducia che manca? Perché non abbiamo capito esattamente quale fosse fra le due superpotenze. Francamente lì non posso entrare in dettaglio, siamo in una fase molto operativa in cui stiamo aiutando il bridging del trust, in poche parole un ponte tra due grandi potenze, le quali hanno interessi comuni e hanno anche interessi contrastanti. Lì non ne parlerò un altro giorno, quando sì, questo ponte, come mi auguro, sia stato in qualche maniera ricostruito. Questo, francamente, se me lo concede, dimostra che le istituzioni internazionali possono, debbono avere un ruolo anche quando appaiono fragili, perché in effetti i problemi sono enormi. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going!